i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza. Signora Lia, stasera stai con tuo marito. Buongiorno Deborah, buongiorno agli ascoltatori. Come mai cominciamo con questo inserto musicale di cui subito non comprendo? È presto spiegato. Deborah Le Borse, adorabile, completo, emotivamente coinvolgente. Dottoressa Deborah, quanto incide la leggera, autorevole collaborazione di un signore così? Ci scriveva ieri Lia. Ho voluto tributarle questo omaggio, si dice tributarle questo omaggio. Sì, sì, tributare, poi sai che è un verbo che ovviamente mi è molto caro. Va bene, allora io ringrazio ovviamente Lia, che è una nostra grande amica. Se altre ascoltatrici vogliono mandare messaggi, ma anche ascoltatori, allora, messaggi così graditi, possono da farlo. Quando Marco a Genova ha promesso che mi avrebbe comprato lo yacht, ma non si subito chiamava Luca? Scatenata, non era Marco? Mi sembrava fosse Luca, però detto non questo vorrei... c'era un gentil signore che si era candidato a regalarmi uno yacht. Tu subito avevi avuto un moto di gelosia e ovviamente abbiamo per questo motivo voluto così ripristinare la par condicio e ti ho messo a conoscenza del fatto che Lia... Che Lia invece ci ha scritto questo messaggio così affettuoso. Allora, se volete scriverci messaggi magari meno affettuosi, perché oggi parleremo di bollette. Esatto, e allora tanto affettuosi non saranno. Parleremo di lavoro. Ecco, anche lì diciamo che il terreno è arduo. E poi parleremo anche di fisco, naturalmente, è venerdì, c'è imposta per te. Molto bene, allora abbiamo già dato il sommario di questa mattinata, bollette perché dal 1 ottobre quella dell'elettricità scende ma aumenta quella del gas e cercheremo di capirne le ragioni. Poi perché parleremo di lavoro, perché a Torino c'è un appuntamento importante, Mauro, peraltro sì, seguito dalla nostra Maria Carla De Cesari. Sì, perché c'è il Festival del Lavoro che è organizzato proprio dal Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro, quindi la categoria professionale che più da vicino segue il lavoro, e Maria Carla è lì, al congresso per infatti seguirlo. E noi ci collegheremo anche con la presidente di questa organizzazione. Peraltro la categoria si sta presentando, anche loro ovviamente utilizzano Twitter con l'hashtag tutti al lavoro, la sua ricetta per l'occupazione di domani. Allora noi proprio per questo motivo abbiamo voluto con la stessa modalità coinvolgere i nostri ascoltatori questa mattina, l'800 24 00 24, se volete prenotate i vostri interventi per raccontarci il mondo del lavoro dal vostro punto di vista. C'è una vostra ricetta personale che avete seguito per superare una situazione difficile? Condividetela con noi oppure segnalateci qual è il vostro parere, l'emergenza che necessita delle ricette degli esperti e degli addetti ai lavori. Ci potete anche scrivere? Certo, al 349 238 6666. Mi raccomando, specialmente le ascoltatrici, se vogliono scrivermi messaggi graditi, gradevoli e amichevoli, sono le benvenute, ma invece se volete parlare più seriamente di lavoro, esatto, di bollette e di fisco, ovviamente siete i benvenuti. SMS, senti, e WhatsApp. E direi di fare anche un salutino ai nostri amici che ci seguono su Facebook, per cui ci rivolgiamo verso la piccola telecamera che ci segue. Adesso condivideremo anche sui nostri profili il video e naturalmente potete testimoniare che Mauro è ancora vivo, ma vi posso assicurare che la condizione di salute è piuttosto cagionevole. Oggi lo devo sorreggere con tutte le forze, quindi abbiamo bisogno di tante signora Lia per incoraggiarti. Non sono al meglio, lo devo ammettere. Partiamo intanto. Fuoco, acqua, elettricità. Fuoco, acqua, elettricità. Fuoco. Allora, da una parte una buona notizia, dall'altra parte una meno buona. Tu che hai tanta dimestichezza con i numeri, ce le vuoi dare tu le percentuali delle variazioni tariffarie che sono state comunicate ieri dall'autorità del gas e l'energia, Mauro? Sì, volentieri, cioè volentieri, volentieri è un avverbio mal posto in questo caso. Dunque, dal 1 ottobre, bolletta dell'elettricità meno 0,7%, buona notizia, quella del gas più 2,8%. È meno buona notizia, anzi direi cattiva. Esatto. Infatti questo, l'aggiornamento della stessa autorità per l'energia, per una famiglia tipo si calcola che la spesa per elettricità potrà aumentare del 4,2% in tutto il 2017. Esatto. Rispetto al 2016. Per c'è anche una quantificazione, oltre 20 euro di aumento. Sì, e per il gas invece parliamo di una spesa di 1.035 euro. Sostanzialmente sarebbe stabile il prelievo, però appunto l'andamento ondivago, per cui riduzioni prima e adesso i ritocchi, fanno sì che dal 1 ottobre, cioè da domenica, ci confronteremo con una cattiva notizia, anzi pessima, dice il nostro ospite. Pessima, dicono le associazioni dei consumatori, perché guarda caso è un po' come succede al prezzo della benzina quando ci sono i lunghi ponti e il grande traffico in autostrada. Questi aumenti arrivano sempre quando parte la stagione giusta affinché vengano affrontati, e quindi siccome a breve accenderemo gli impianti di riscaldamento, ecco che arriva anche l'atteso aumento del gas. Luigi Gabriele, responsabile affari istituzionali dell'Associazione dei Consumatori Codici, Centro per i Diritti del Cittadino, ben ritrovato, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti i radioascoltatori. Allora, è un aumento casuale? Voi che studiate un po' più nel dettaglio gli aumenti, andando a verificare anche quello che succede sui mercati internazionali, ci sta questo aumento del gas, o ancora una volta c'è chi richiama un po' di speculazione, come fanno molti suoi colleghi delle associazioni dei consumatori? Come lo dobbiamo considerare questo aumento, Gabriele? È un po' il pagare denaro o vedere cammello. Il problema è legato al fatto che in Italia non c'è un mercato liquido del gas, e quindi siamo l'unico paese in Europa che ogni volta che c'è una piccola variazione su base internazionale del prezzo del gas, perché una nave si è fermata e quindi non può essere rigassificata, o c'è un problema in un paese dove notoriamente viene attraversato dalle cosiddette tubazioni, le grandi tubazioni che portano gas, in Italia accade che sia un'oscillazione di prezzo molto ampia. Perché? Perché paradossalmente il prezzo del gas si fa in Europa secondo due condizioni diverse. Una al nord, che normalmente costa sempre molto di meno perché è più liquido, si dice che c'è più gas a disposizione perché arriva da più parte, e in Italia invece costa sempre di più nonostante siamo il cosiddetto corridoio mediterraneo, cioè il gas che va verso nord passa sempre attraverso l'Italia, perché ci sono delle strozzature, si chiamano colli di bottiglia, prevalentemente nell'interconnessione tra paesi, che ogni volta che accade qualche cosa l'Italia è sempre quella che paga di più, e ovviamente accade sempre quando c'è un po' più di domanda, ovvero a partire dall'autunno. Tra l'altro anche molte categorie professionali hanno già espresso la loro preoccupazione, per esempio lo hanno fatto ieri gli agricoltori aderenti a Coldiretti. L'andamento delle tariffe energetiche pesa sui conti delle famiglie ma anche sui costi delle imprese, rende più onorosa la produzione, questa è già una categoria per le condizioni del maltempo duramente colpita in tutta l'estate, e quindi anche per la siccità, per esempio hanno dovuto spendere tanto per la bolletta dell'acqua per irrigare le proprie coltivazioni, adesso abbiamo anche questo nuovo aumento che chiaramente peserà. Attenzione, l'energia è diminuita non perché a livello internazionale c'è stata una diminuzione del prezzo, anzi paradossalmente è aumentato il prezzo, è diminuita perché finalmente la nostra autorità, dopo solleciti e un'infinità di pressing, ha fatto smettere alcuni operatori che nel contesto del dispacciamento, si chiama un po' tecnico, quindi non sto a tediare i consumatori, hanno smesso di truffarci, ovvero c'erano degli operatori che quando ci serviva più energia ce la facevano pagare di più, e molto di più, anche con il 1000% in più, e quella è la cosiddetta energia per mantenere la sicurezza del sistema, ovvero per fare in modo che il sistema sia in equilibrio e non accada uno blackout. Noi siamo costretti in determinate ore a comprare dell'energia all'ultimo momento, si chiama energia per il sistema di dispacciamento. Siccome che il vigilante non vigilava, c'erano operatori che allegramente sperequavano. A partire da luglio invece, dopo il pressing nostro e dopo l'apertura di un procedimento all'antitrust, sono stati costretti anche l'autorità di regolazione ad aprire dei procedimenti. Ci sono circa un centinaio di questi soggetti che sperequavano, che sono stati oggetti di una verifica di vigilanza e anche di sanzione. Purtroppo hanno segretato i nomi, però da allora hanno smesso di sperequare, ovvero di truffarsi. Almeno l'effetto, il deterrente c'è stato, insomma, adesso tanto metterli... Momento l'energia infatti è diminuita, infatti l'autorità lo dice quando ha comunicato i prezzi, è sostanzialmente legato alla forte diminuzione dei costi di dispacciamento. Allora Mauro, hai qualche domanda per Luigi Gabriele? Perché... Volevo legarmi alla nostra amata legge sulla concorrenza, la famosa 124, perché lì c'è stato un ulteriore intervento per il passaggio al mercato libero, al mercato non più tutelato, insomma. Volevo capire da parte dell'Associazione Consumatori come vedete questa prospettiva di appunto scomparsa della maggior tutela, così si chiamano questi mercati appunto sull'elettricità. Noi siamo profondamente preoccupati. Proprio ieri abbiamo pubblicato un'analisi statistica che abbiamo fatto, che dice che il 70% degli italiani comparsa della tutela ha paura di essere truffato, ed è proprio così. Il problema è che dal 1 luglio 2019 gli italiani dovranno necessariamente fare una scelta non più legata all'esistenza della tutela. Ci siamo opposti, abbiamo detto che aumenteranno vertiginosamente i prezzi e che gli italiani non sono pronti a fare questa attività e che nemmeno ce n'era bisogno di farla, perché abbiamo sempre dimostrato che nella tutela i prezzi dell'energia e del gas sono mediamente più bassi, perché a comprare è un grosso gruppo di acquisto collettivo di cittadini che fa un acquisto condiviso, e quindi è normale che l'energia costa di meno. Gli italiani non sono pronti, da qui a un anno e mezzo accadrà di tutto, già le stiamo sentendo in queste settimane, sono tornate di nuovo con il porta a porta, il teleselling massivo, c'è gente che viene presa in giro dicendo che la tutela è già finita, quindi devi subito fare la scelta. Su questo io e lei si ricorda quante trasmissioni abbiamo fatto proprio per chiarirlo ai nostri ascoltatori, che ancora quella fine del regime tutelato è molto in là nel tempo, abbiamo invece tempo appunto ancora, esatto, fino al 2019. Molte società stanno appunto, come diceva giustamente, bussando alla porta dei clienti dicendo che invece è tutto terminato, devono prendere delle decisioni. Gabriele, quindi? Noi stiamo mettendo in campo una serie di azioni informative, ma siamo sicuri che non ce la faremo a soddisfare la necessità di 22 milioni di utenti dell'energia e 13 del gas di informarli. Il governo deve assolutamente intervenire in questo momento, perché abbiamo ancora un anno e mezzo, iniziando perlomeno con una serie di campagne istituzionali su tutti i canali di comunicazione che si possono utilizzare, per spiegare ai cittadini cosa accadrà e come cercare il più possibile di non farsi fregare. Se il cittadino non sa quanto costa un chilo di pane, il panettiere glielo metterà al prezzo che vuole lui, e questo è quello che sta succedendo nel passaggio dalla tutela al libero. Allora, intanto abbiamo un ascoltatore, poi prima di salutarla, Gabriele, vorrei anche chiederle un aggiornamento rispetto ad un'altra vostra grandissima battaglia di almeno gli ultimi 2-3 anni, quella contro i maxi conguagli e le super bollette, che continuano ancora ad arrivare a molti consumatori. Però intanto, a proposito di bollette opache, sulle quali bisognerebbe puntare un riflettore, quindi spendere un po' di più per l'energia elettrica, battutona che non fa ridere nessuno, sentiamo Antonio da Roma. Sì, buongiorno, chiamo da Roma. Senta, sono arrabbiatissimo perché da quando c'è il mercato libero ci stanno rapinando. Io ho, con gli oneri di sistema, che è una voce che pesa per più di 20 euro, pensi che io ho una bolletta di un box che non ho usato, 0 kilowatt, 48 euro di bolletta. Sì, sì, solo tasse. È una cosa che mi fa io vorrei sapere dal vostro esperto chi è, nessuno me l'ha saputo dire, gli oneri di sistema, ma chi se l'ha inventati? A chi vanno questi soldi? Allora, sono dei rapinatori. Lo sa Mauro Meazza, Antonio. No, adesso lo so, provo a rispondere. Buongiorno Antonio, ma perché noi sul Sole 24 Ore qualche settimana fa abbiamo proprio fatto un'inchiesta sul tema degli oneri di sistema. Gli oneri di sistema sono sostanzialmente un importo che viene chiesto al consumatore per favorire il passaggio a forme di produzione energetica più efficienti meno inquinanti. Quindi stiamo pagando noi questa rivoluzione energetica italiana che ancora per sostenere mezzi, modalità di produzione energetica meno inquinanti, ad esempio. Quindi di loro sarebbero anche una cosa virtuosa. Quello che succede è che però specialmente le seconde case, quindi il box non utilizzato, che è un altro caso di una pertinenza non relativa alla prima casa, ecco, su quello ci sono stati degli aumenti molto molto elevati a partire dall'anno scorso, e quindi noi l'abbiamo segnalato questa cosa. Gli aumenti sono molto elevati anche perché non sono legati al consumo reale dell'elettricità, sono fissi. E quindi uno magari ha speso un euro e però si ritrova, come il caso del nostro ascoltatore, 20 euro. Sentiamo cosa ne pensa Luigi Gabriele, e gli chiedo anche un ultimo minuto di tempo. Luigi, questo commento che le chiedevo prima sul tema dei maxi conguagli, se si sono un po' ridimensionati in Italia o il fenomeno ha gli stessi trend che denunciavamo già nei mesi passati. Allora, come gli italiani si sono resi finalmente conto che con la bolletta non pagano solo l'energia o il gas, ma pagano un'infinità di cose. Adesso non voglio far arrabbiare nessuno, sono 30 anni che paghiamo lo smantellamento delle centrali elettriche, nucleari. Beh, lo stesso principio di tutte le accise applicate al prezzo della benzina, no? Esattamente, la stessa identica cosa. Sono un'infinità di voci, parliamo anche dell'energia alle ferrovie dello Stato e così via. E sono all'interno di queste voci ulteriori che sono oneri di sistema, gestione del trasporto contatore e così via. Con la riforma della tariffa addirittura dal 1 gennaio noi paghiamo paradossalmente di più se consumiamo di meno, perché queste voci sono diventate fisse e le hanno spalmate su tutti, mentre prima poteva arrivare la bolletta zero, adesso la bolletta zero non può arrivare più, nonostante non consumiamo nulla. Con i maxi conguagli siamo a un punto tale che abbiamo dovuto chiedere al legislatore di fare qualcosa, visto che il governo e il regolatore non l'avevano fatto. Dopo 2 anni siamo riusciti a far depositare un disegno di legge, abbiamo proposto dei severi emendamenti proprio in questi giorni congiuntamente a tutte le associazioni dei consumatori, perché gli operatori della distribuzione continuavano a negare che non esistevano i conguagli o che erano talmente infinitesimali che non erano veri. Io ricordo in Italia che solo di bollette elettriche ne vengono emessi 220 milioni l'anno, 160 milioni di quelle del gas e quasi 150 di quelle dell'acqua, quindi è normale che ci sia qualche milione di conguagli in giro. Il problema è l'entità di questi conguagli. Adesso con questo disegno di legge speriamo che prima della mortem della legislatura si arrivi a farlo approvare in sede referente in commissione. Stiamo molto presenti in pressing su tutti i gruppi parlamentari, lo speriamo fortemente, però solo il Parlamento può porre fine al problema. Intanto sono numerosi messaggi che ci arrivano da parte degli ascoltatori con tutta una serie di aperture di parentesi varie relative appunto alla questione che stiamo affrontando questa mattina. C'è chi denuncia anche nelle bollette la presenza di addizionali comunali, provinciali e regionali su gas dei principali operatori. Mauro, ce ne sono, a parte chi dice che insomma tu hai conferito classe a questa trasmissione e la tua presenza la nobilita. Questo è un creditore senz'altro. No, volevo dire, c'è una ascoltatrice si lamenta perché dice mi avevano detto che a fine anno si sarebbe passati al mercato libero, non era vero. Ora non voglio difendere l'azienda, non mi interessa, dico solo in quel momento poteva anche essere ritenuto vero, perché questo termine del 2019 è l'ennesima proroga, esatto, del passaggio al mercato libero e la fine del mercato di maggior tutela. Parliamo adesso della metà del 2019, quindi c'è tutto il tempo per restare nel mercato tutelato e decidere nel frattempo cosa fare. Diciamo che però qualche operatore ha un po' forzato la mano dicendo che in realtà questa interruzione sarebbe avvenuta quest'anno e quindi ha un po' approfittato della disinformazione delle persone. Ci ritorneremo su questi argomenti, hai visto come scaldano l'animo, è proprio il caso di dirlo, speriamo che non paghino più bolletta del gas l'animo dei nostri ascoltatori, consumatori, e quindi ci ritorneremo anche magari con l'aiuto di Luigi Gabriele. Codici, buongiorno e ben ritrovata presto, Luigi. Grazie a voi, saluto a tutti. Buona i radioascoltatori. Io lavoro e penso a te, torno a casa e penso a te, le telefono e intanto penso a te. Allora, questo Battisti oggi ci sta bene per l'argomento, diciamo, però così sono stati molto cortesi i nostri giovani assistenti Marco Lombardo, Giulia Lauricella, che così mi hanno pescato questa canzone un po'. Invece di mettere la solito Freddie Mercury o Iggy Pop come hanno fatto ieri, insomma oggi siamo ritornati sul classico. Troppo moderne per i miei orecchi, no, invece perché io lavoro e penso a te, perché come abbiamo detto sei inaugurato a Torino, prosegue fino a sabato e poi con una coda domenica il Festival del Lavoro, è la manifestazione di una professione importante, i consulenti del lavoro. C'è lì Maria Carla De Cesari che è in collegamento con noi. Buongiorno Maria Carla. Buongiorno. Allora, raccontaci un momento, questa manifestazione, parlare di lavoro, addirittura Festival del Lavoro, sembra ottimista di questi tempi, perché vediamo che ad esempio l'occupazione fatica e le tematiche di lavoro, tu te ne occupi tutti i giorni, sulle pagine Sole 24 Ore spesso sono funestate da questioni burocratiche, difficoltà normative e così via. Quindi perché fare una manifestazione dedicata al lavoro da parte dei consulenti del lavoro? Ma perché è un po' il loro core business, diciamo. I consulenti del lavoro ogni anno si ritrovano al festival, che è un po' un mix. Da un lato è un palcoscenico di politici, di personalità che in qualche modo durante l'anno si sono segnalate per affrontare in modo particolare le tematiche del lavoro, e poi ci sono tanti dibattiti tecnici, normativi, per esempio che cosa si intende, quali sono le caratteristiche delle collaborazioni, piuttosto che, diciamo, come si fanno i licenziamenti o quali sono i presupposti dei licenziamenti. Però il festival quest'anno è dedicato all'evoluzione del lavoro, diciamo in linea con quello che è la riunione del G7, quindi le tecnologie e il lavoro, come tutto questo può impattare. Perché infatti la tecnologia è l'industria cosiddetta 4.0, cioè questa rivoluzione nei prodotti e nei processi che poggia sulla digitalizzazione di prodotti e servizi. Ebbene, questo sembra essere la maggiore novità. Noi stiamo tutte le domeniche sul Sole 24 Ore anche ospitando questo viaggio sul grande dibattito: ma la tecnologia aiuta il lavoro o non lo aiuta? Lì che si dice a Torino. Torino, tra l'altro, capitale del lavoro, Maria Carla, perché c'è anche il G7 sul tema. Lo dicevamo, certo. Maria Carla, è un appuntamento voluto, cioè quindi con una concomitanza voluta. Ecco, si dice. In realtà ieri è uscito un po' un paradosso, perché come dice Stefano Sacchi, noi abbiamo perso sì occupazione per via della, come dire, dell'innovazione, dei computer, eccetera, ma paradossalmente abbiamo perso occupazione laddove c'era più sostrato manuale. Quindi noi siamo ancora un po' indietro nell'innovazione, l'occupazione in questi termini è calata meno, però rischiamo di rimanere indietro. Questo non ci deve mettere in sicurezza, perché rischiamo che quando in qualche modo l'innovazione anche da noi si affermerà in modo più forte, rischiamo di non arrivare non preparati. Certo. Grazie Maria Carla. Sì, adesso la ripeschiamo tra l'altro dopo la nostra pausa. Infatti, volevo dire a tutti gli ascoltatori, anche durante gli stacchi pubblicitari, l'informazione sui mercati che daremo tra pochissimo, cara Debora, sì, continuate a scriverci 349-238-6666, telefonateci se volete 800-24-0024. Ma adesso chiedo un attimo di pazienza a Maria Carla e Debora, tocca a te. È il mio momento, le borse. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Due di denari. Allora, caro Mauro, cosa rende vincente una professione? Quali sono le professioni più richieste, per esempio, in Sicilia rispetto alla Toscana? Tu lo sai? No, io assolutamente no, ma sicuramente lo sanno i consulenti del lavoro. Assolutamente. Ieri hanno presentato questo osservatorio statistico, un'indagine comparata dei dati del volume di lavoro attivato negli ultimi 5 anni e ci sono, insomma, delle informazioni molto importanti sui cambiamenti del lavoro in termini di competenze e di figure professionali in calo e in aumento. Le novità sono tante. Allora, ti dico questa faccenda di differenza, per esempio, tra la Sicilia e la Toscana. In alcune regioni del sud, Sicilia, Puglia e Sardegna, si caratterizzano per una vocazione nelle professioni sanitarie riabilitative, mentre in Toscana crescono i tecnici del marketing, scendono i bancari. Questo lo sapevamo anche per le tematiche che abbiamo affrontato un paio di giorni fa del fintech e la disintermediazione. E qui è un caso in cui la tecnologia, e chiamo allora in causa di nuovo l'amica Maria Carla De Cesari, che è a Torino per noi, e intanto abbiamo anche in collegamento la presidente del consulente del lavoro, Marina Calderone. Le do il benvenuto in onda. Buongiorno, presidente. Grazie. Buongiorno a voi. Allora, un attimo, un'ultima battuta, mi piaceva farla con Maria Carla, perché proprio prima di fermarci per le informazioni, per l'aggiornamento dai mercati finanziari, parlavamo dell'effetto appunto tecnologia e lavoro. Mm-hmm. E questo, già questo fatto che appunto la tecnologia un po' di lavoro lo crea e un po' di lavoro però invece altri lavori li distrugge, verrebbe da dire un po' brutalmente. Maria Carla, so che lì l'osservatorio statistico dei consulenti del lavoro ha preso anche in esame appunto le domande di lavoro degli ultimi 5 anni, e tu tra pochissimo te ne dovrai occupare, appunto seguendo da vicino una tavola rotonda. È così, Maria Carla? Sì, è così. Adesso tra un po' ci sarà una tavola rotonda dedicata alle politiche attive, perché è questo, come dire, è anni che si speech, e probabilmente insomma solo negli ultimi anni il governo ne ha preso atto anche con una legge, con la riforma del 2015, le politiche attive diventano uno snodo essenziale per cercare di accompagnare i lavoratori che perdono lavoro, che non hanno più competenze adeguate rispetto a quelle che sono le professionalità richieste dal mercato del lavoro, per accompagnarli appunto verso una nuova occupazione. Naturalmente abbiamo creato un'agenzia che è l'ANPAL, da qui a dire che le cose funzionano, beh, insomma, ce ne passa. Probabilmente una battuta adesso la farà anche la presidente Calderone. L'importante però è aver cercato di mettere i puntini sulle i e di chiarire, di mettere in evidenza come essenziale sia la formazione durante tutta la vita lavorativa, soprattutto perché la vita lavorativa, al di là di quello che può essere il dibattito sulle pensioni, sulla crescita dell'aspettativa di vita da inserire diciamo come requisito nell'età pensionabile, naturalmente la vita lavorativa deve durare un po' di più, visto che auspicabilmente dura di più la nostra vita biologica. Grazie, certo. Maria Carla, questo genera, ti ringraziamo, ti lasciamo tornare adesso ai lavori del congresso, del festival. Quest'ultima considerazione è anche quella al centro del grande conflitto del quale si parla in questo momento, con un po' generazionale, perché chiaramente se esci più tardi dal mercato del lavoro è chiaro che l'ingresso delle nuove generazioni è reso un po' più complicato, al punto che, come sapete, il governo ha allo studio anche questo nuovo pacchetto di incentivi per favorire l'occupazione degli under 30, e dopo i tanti dettagli trapelati fino a poche settimane fa, adesso pare che le indiscrezioni abbiano smesso di circolare. Chissà cosa stanno pensando. Beh, perché ci avviciniamo al momento della scrittura vera, esatto, e propria, questo quindi dobbiamo augurarci. Presidente Calderone, partiamo proprio da questo punto. Marina Calderone, che cosa vi aspettate, a prescindere poi dagli auspici, in questo pacchetto under 30 per favorire l'occupazione dei ragazzi, dei giovani? Ma dal nostro punto di vista, favorire l'occupazione dei giovani vuol dire però rendere strutturali alcune misure e non legarle invece a interventi che poi hanno una natura, come dire, temporanea. E noi abbiamo più volte detto che gli incentivi previsti dalla legge finanziaria del 2015 hanno sicuramente prodotto dei posti di lavoro, ma non essere intervenuti su una riduzione strutturale del costo ha fatto sì che sicuramente nel caso delle aziende che hanno assunto in quel periodo, nel momento in cui finiranno gli incentivi, se nel frattempo non è ripartita l'economia, non è ripartita anche l'impresa, indubbiamente queste realtà poi avranno la necessità di ridurre nuovamente la forza lavoro impiegata. Quindi per noi è importante che nella finanziaria ci siano interventi a sostegno dell'economia reale, che ci sia un segnale di un nuovo approccio, una riduzione strutturale di quelle che sono le componenti del costo del lavoro, e poi che ci sia anche un'indicazione di quelle che invece devono essere le misure necessarie per rinsaldare il patto generazionale, perché è vero che si parla di invecchiamento attivo, è vero che è allo studio e si discute in questi tempi anche dell'aumento e dell'innalzamento dell'età pensionabile, però a fronte di un'economia che non produce posti di lavoro aggiuntivi in misura sufficiente ad assorbire tutta la forza lavoro potenziale, noi dobbiamo attivare il tasso di sostituzione. Quelli che sono gli indicatori che vengono dai recenti interventi anche sull'anticipazione pensionistica, per quel che ci riguarda, non sono sicuramente indicatori di un percorso soddisfacente. Cioè, mi scusi Presidente, quindi il fatto di consentire un ritiro anticipato rispetto a quello che è fissato adesso dalla cosiddetta riforma Fornero, vi trova d'accordo oppure no? Non ho compreso quest'ultimo punto. Noi, nel nostro punto di vista, certamente poter consentire un'uscita progressiva dal mondo del lavoro anticipata ci trova d'accordo, perché noi riteniamo che in questo modo si possano liberare dei posti di lavoro e si possa anche procedere a un ingresso e a una formazione dei lavoratori. Però c'è da dire anche che invece i dati, per esempio, dell'APE, dell'anticipo pensionistico, sì, quello di contratto, non hanno sicuramente parlato di un intervento che possa essere considerato efficace, perché tante sono state le difficoltà, di fatto è rimasto al palo, non è partito. Allora ecco che invece bisogna, anziché parlare di innalzamento dell'età pensionabile, invece bisognerebbe accompagnare chi vuole uscire dal circuito, perché magari ha lavorato tanto e vuole anche godersi il momento del riposo, bisognerebbe accompagnarlo, perché in questo modo nel contempo, se investiamo sull'apprendistato duale e sull'incentivazione dei giovani, riusciamo a creare lavoro. Presidente Calderoni, nel 2017 ha introdotto una novità importante nel nostro ordinamento del lavoro, la cancellazione dei voucher e l'introduzione delle due formule che lo hanno sostituito come forma di remunerazione del lavoro occasionale, il libretto famiglie e il contratto di prestazione professionale. Avete digerito il nuovo meccanismo dopo che nei mesi passati voi ne avevate evidenziato con molta forza tutte le criticità? Guardi, mi consenta una battuta, non ce l'avevo sullo stomaco, quindi sicuramente devo dire che per noi non è cambiato nulla, nel senso che se non in positivo, perché invece possiamo dire che abbiamo rilevato che l'aumento dei contratti di lavoro intermittente, perché poi i voucher secondo noi soprattutto nel secondo trimestre sono stati sostituiti più dal lavoro intermittente che da altre forme come quelle che lei ha citato, dimostrano che comunque c'è un interesse a andare verso una forma di lavoro che poi abbia anche uno strumento e un richiamo della contrattazione collettiva. Grazie. Laddove si fa lavoro per noi è sicuramente positivo. Il voucher in quanto tale rispecchia certamente delle posizioni e delle necessità temporanee, però non è la soluzione per strutturare dei percorsi lavorativi. Può rimanere ancora un minuto con noi, Presidente Calderone, lo so che ha degli impegni, il suo ufficio stampa mi aveva chiesto di essere molto rigida nel lasciarla, altri due minuti dopo il traffico glieli possiamo chiedere? Resto volentieri. Grazie. Grazie, allora traffico. Due di denari. Chi non lavora un must che dovevamo utilizzare questa mattina per diciamo il nostro che tema. Abbiamo preso un po' alla larga il tema della conciliazione vita-lavoro, che invece esatto, è un tema molto serio. Molto alla larga. Ma è ogni rimasta, tanto bisogna alleggerire la nostra autorevole leggerezza, cara Deborah. È rimasta con noi intanto Marina Calderone, presidente del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro. A Torino si svolge il Festival appunto del Lavoro, manifestazione organizzata dal Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti. Il tema centrale di questa edizione di questo festival è la rivoluzione tecnologica aiuta l'occupazione. Come aiuta anche i consulenti del lavoro, Presidente? Ma i consulenti del lavoro come professionisti sono al centro di quelle che sono le dinamiche dell'occupazione. Allora sicuramente anche per noi l'innovazione tecnologica rappresenta una sfida per migliorare quelle che sono le nostre prestazioni professionali, l'efficienza delle nostre organizzazioni, dei nostri studi e contemporaneamente poter offrire anche ai nostri clienti e alle aziende che assistiamo dei servizi migliori, ma soprattutto una consulenza che sia orientata a intercettare quelle che sono le nuove necessità dell'impresa anche in termini di fabbisogni formativi del personale. Il dibattito sull'innovazione a volte ha a che vedere anche con la preoccupazione che ci possa essere la distruzione del lavoro. Invece noi riteniamo che la tecnologia, se opportunamente accompagnata, possa migliorare certamente la performance lavorativa del dipendente, ma che comunque il dipendente, il lavoratore sia un soggetto insostituibile. Cambieranno certamente, nasceranno nuove professionalità, cambierà il modo di lavorare. E nuove formule contrattuali anche per stabilire una corretta relazione fra queste figure professionali e datori di lavoro. E lì interverrete voi, Presidente. Io credo in un lavoro sempre più smart, in cui ci sia anche ovviamente l'accentuazione della dimensione lavorativa oltre quello che è lo studio o l'opificio industriale propriamente detto, cioè nel senso che il lavoro uscirà dalle quattro mura dell'ufficio e dell'impresa e invece si localizzerà attraverso anche l'utilizzo delle moderne tecnologie laddove poi c'è la necessità anche di portare le competenze, però ci sarà anche secondo me la possibilità di consentire a chi, come penso alle tante donne che oggi vogliono intraprendere un'esperienza lavorativa, ci sarà la possibilità di conciliare meglio anche quelle che sono le esigenze dei tempi di vita e di lavoro, la cura della famiglia, favorendo anche lo smart working e il lavoro a distanza. Certo. Certo. Presidente, sì, scusami. No, scusami tu Deborah, volevo chiedere al Presidente una cosa un pochino così al volo prima di lasciarla perché so che c'è la tavola rotonda sulle politiche attive, esatto. Stiamo rallentando una tavola rotonda. Jobs Act, 2 anni dal Jobs Act, che se dovesse essere un voto scolastico, che voto possiamo dare a questo intervento di regolazione complessiva del lavoro avviato 2 anni fa? Ma io dico che il nostro giudizio per quel che riguarda gli istituti contrattuali è un giudizio positivo, lo è anche per la sfida rappresentata dalle politiche attive che ancora non hanno la sufficienza perché ancora tanti processi devono essere avviati e molti nodi vanno sciolti, però non possiamo certamente attribuire a una norma di legge il compito di risolvere il problema dell'occupazione in Italia. Non è che non si fa lavoro per norma, ma si fa creando le condizioni perché lo sviluppo poi possa attrarre le professionalità e quindi rinsaldare anche le esperienze lavorative. Grazie Presidente, noi la ringraziamo, le auguriamo buon lavoro e buon lavoro lì per il congresso. Torino è la capitale del lavoro in questi giorni, speriamo, esatto, che porti bene da Torino, poi si diffonda rapidamente in tutta Italia. Allora, sicuramente poi una bella iniziativa c'è nei prossimi giorni a Milano. Volevo segnalare, visto che le ha citate Marina Calderone, le donne che si inventano delle iniziative di impresa, ce ne sono molte, intraprendenti, magari poi a prescindere dalle vocazioni personali che si hanno verso la libera iniziativa imprenditoriale, ci sono anche quelle donne un po' costrette ad inventarsi qualcosa di nuovo perché fuori dal mercato del lavoro, dopo una gravidanza, insomma situazioni che conosciamo molto bene. Allora c'è la nuova edizione del premio Gamma Donna, e la nona edizione è un premio che da molti anni riconosce delle storie di innovazione poco conosciute, le porta alla ribalta. È un premio che si rivolge ad imprenditrici di ogni età e a giovani imprenditori anche under 35 che possono avere questo riconoscimento. Allora la notizia è, potete andare a cercare tutte le informazioni sul sito del premio per potervi partecipare, è che è stato prorogato fino al 3 ottobre il termine per iscriversi e quindi insomma se siete curiosi fino a martedì, esattamente. Adesso gli ultimi 2 minuti Mauro sono tutti per te. Ma ti ringrazio, possiamo andare qua addirittura con una sigla? Sì è pronta. C'è imposta per te. C'è pure il singhiozzo oltre a essere intasato. Ho chiesto a Filippo Aureggi se poteva, questa mattina in regia, ho chiesto se poteva mettermi un singhiozzo. Perché? Perché ti devo parlare, ti ho già parlato in questi giorni dell'incapienza. Sì, ho già avuto modo di fare amicizia con questo istituto. Allora, l'incapienza è quando tu avresti diritto a uno sconto, pagare uno sconto, avere uno sconto sull'IRPEF, quindi pagare meno IRPEF. Perché hai fatto una spesa allo Stato. Ma non hai abbastanza IRPEF per prenderti lo sconto. E allora lì si dice che c'è l'incapienza, che è un malanno, è una cosa... Quello che è interessante è che, come scoprirai lunedì prossimo sul Sole 24 Ore con nelle pagine dell'Esperto Risponde, certo, lì abbiamo anche il caso di un signore che avrà un'incapienza a singhiozzo, perché per un certo periodo questo signore percepirà un tipo di reddito che è soggetto a tassazione separata. Adesso, senza perché tu ti preoccupi, Deborah, e anche gli ascoltatori, ti ho visto un po' preoccupata. Vuol dire che lui, insomma, lì c'ha un conto a parte col fisco. E quindi, però, non mi ha abbastanza IRPEF e mi diventa incapiente. Però poi passerà invece a un reddito da pensione. Immaginiamo che gli succeda per allora, fortuna questo. E allora a questo punto lui diventerà capiente, uscirà dall'incapienza. La domanda era: scusi, ma se io in questi anni faccio una ristrutturazione edilizia, e i primi 2-3 anni che non sono capiente, e ho le perso rate, i vantaggi fiscali, le posso rate recuperare, le perdo, che sì. faccio? Sì, io la devo, risposta è sì, devo c'è imposta per te. Che purtroppo non solo lui è incapiente a singhiozzo, ma anche la sua detrazione sarà a singhiozzo, riparte da quando sarà capiente. Potrà essere la quarta, la quinta rata, quello che è. Tutto questo mi dispiace un po' dirlo, però è molto serio in realtà il problema dell'incapienza. Benissimo. E lo affrontiamo sull'Esperto Risponde, ma anche qui mi piace, c'è imposta per te. Allora, ti do una buona notizia, Mauro. La puntata è finita, puoi andare a riposarti. Per cortesia, curati bene, non riportarmi dei bacilli, perché io invece mi sento in ottima forma, non voglio ammalarmi. Intanto cuore, ogni tanto ritorno lì. Ogni tanto la nostalgia. Due di denari termina nostalgia qua. Canaglia. Una nuova settimana insieme si è conclusa. Noi ritorniamo lunedì, ringraziamo tutti i ragazzi dello staff che come sempre ci sopportano, oltre che supportarci. E ringraziamo e salutiamo anche Nicoletta Carboni. Assolutamente. Realtà, dopo di noi c'è Beh, non appunto... da con il suo obiettivo salute. E allora, per questo ogni tanto anche la lingua, come dire, si impiglia sul saluto a Nicoletta. Grazie, buona domenica a tutti.